L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Ventitresima puntata. Il rinsavimento d'Orlando. Lettura poetica di Arnoldo Foà. Narratore Gianni Bonagura. Come aveva fatto Astolfo da solo a conquistare tutta l'Africa? Astolfo crede nelle infinite analogie che le parole stabiliscono tra le cose. E il suo protettore, San Giovanni Evangelista, se è vero che ha scritto l'Apocalisse, sa che il mondo è tutto fatto di metafore. Quali sono gli ostacoli che si presentano a chi vuole condurre un esercito dall'Etiopia alla Sirte? Prima di tutto il vento, che solleva tempeste di sabbia nel deserto. Ma non diciamo che il vento si leva? Allora basterà andare là dove il vento dorme. Non diciamo che il vento soffia? Un soffio, se gonfia un'otre, resta prigioniero. Astolfo va alla caverna dove dorme Noto, il vento del sud, e applica un'otre allo spiraglio. Al mattino, quando Noto si sveglia e vuole uscire, resta chiuso nell'otre. Astolfo torna col vento imprigionato nel sacco e dà il via alle truppe. Lunghe file di soldati e cammelli ed elefanti attraversano il deserto senza che s'alzi un granello di sabbia. Altra difficoltà, il fatto che in Nubia non esistono cavalli. Finché si marcia nel deserto, cammelli ed elefanti sono quello che ci vuole, ma quando si arriva ai monti dell'Atlante e si deve muovere all'assalto delle città della costa, ci vorrebbe una gran quantità di cavalli per precipitarsi su Biserta come una valanga. Come una valanga. Astolfo sale sulla cresta della montagna e si mette a far franare pietre giù per il pendio. Ogni pietra, rotolando, fa rotolare altre pietre. E rotolando rimbombano come zoccoli, rimbalzano come garretti, sgroppano come groppe, caracollano, ecco che mettono fuori gambe, code e colli, ecco che levano musi e criniere e nitriti. Astolfo torna con una mandria di cavalli immensa. Ce n'è da montare 80.102 cavalieri nubiani e assaltare Biserta. Ma a che vale conquistare Biserta se poi non si hanno navi per portar soccorso a Carlo in Francia? Quello di Nubia è un esercito terrestre. Non possiede neanche un legno, neanche un guscio. Legno, guscio. Astolfo, in riva al mare, si mette a giocherellare, a buttare in acqua pezzi di corteccia e ramoscelli e ghiande, e li guarda galleggiare come un bambino. Un'ondata li innalza, li travolge. Riemergono trasformati in una flotta di galeoni e fuste e brigantini. Sceso era Astolfo dal giro lucente alla maggiore altezza della terra, con la felice ampolla che la mente doveva sanare al gran mastro di guerra. Un'erba quivi di virtù eccellente mostra Giovanni al duca d'Inghilterra, con essa vuol che al suo ritorno tocchi al re di Nubia e gli risani gli occhi. A ciò, per questi e per li primi merti, gente gli dia con che Biserta assaglia. E come poi quei popoli inesperti, armi e tacconci ad uso di battaglia, e senza danno passi per i deserti, ove l'arena gli uomini abbarbaglia, appunto appunto l'ordine che tegna, tutto il vecchio Santissimo gli insegna. Poi lo fe rimontar su quello alato che di Ruggero e fu prima d'Atlante. Il paladin lasciò, licenziato da San Giovanni, le contrade sante, e secondando il Nilo alato alato, tosto i nubi apparir si vide inante, e nella terra che del regno è capo scese dall'aria e ritrovò il Senapo. Molto fu il gaudio e molta fu la gioia che portò a quel signor nel suo ritorno, che ben si raccordava della noia che gli aveva tolta delle arpie d'intorno. Ma poi che la grossezza gli discuoia di quello umor che già gli tolse il giorno e che gli rende la vista di prima, l'adora e cole, e come un dio sublime. Sì, che non pur la gente che gli chiede per muover guerra al regno di Biserta, ma 100.000 sopra gli ne diede, e gli fe ancor di sua persona offerta. La gente, appena che era tutta a piede, poteva capirne la campagna aperta, che di cavalli a quel paese inopia, ma d'elefanti e dei cammelli copia. La notte innanzi il dì, che a suo camino l'esercito di Nubia dovea porse, montò sull'ippogrifo il paladino e verso mezzodì con fretta corse tanto che giunse al monte che l'austrino vento produce e spira contra l'orse. Trovò la cava, onde per stretta bocca, quando si desta il furioso scocca. E come raccordogli il suo maestro, avea seco arrecato un utre voto, il qual, mentre nell'antro oscuro e alpestro affaticato dorme il fiero noto, allo spiraglio pon tacito e destro. E te l'aguato in modo al vento ignoto, che credendosi uscir fuor la dimane, preso e legato in quello utre rimane. Di tanta preda il paladino allegro ritorna in Nubia, e la medesma luce si pone a camminar col popol negro, e vettovaglia dietro si conduce. A salvamento con lo stuolo integro, verso l'Atlante il glorioso duce, pel mezzo vien della minuta sabbia, senza temer che il vento a nuocer gli abbia. E giunto poi di qua dal giogo, in parte onde il pian si discuopre e la marina, Astolfo elegge la più nobil parte del campo e la meglio atta a disciplina, e qua e là per ordine la parte a piè d'un colle ove nel pian confina. Qui vi la lascia, e sulla cima ascende, in vista d'uom ch'a gran pensieri intende. Poi che inchinando le ginocchia fece al santo suo maestro orazione, sicuro che sia udita la sua prece, copia di sassi a far cader si pone. Oh, quanto a chi ben crede in Cristo lece! I sassi, fuor di natural ragione crescendo, si vedean venire in giuso e formar ventre, gambe, collo e muso. E con chiari a nitrir giù per quei calli venian saltando, e giunti poi nel piano scuotean le groppe, e fatti eran cavalli, chi baio e chi leardo e chi rovano. La turba, che aspettando nelle valli stava alla posta, l'ordava di mano, sì che in poche ore fur tutti montati, che con sella e con freno erano nati. 80.102 in un giorno fe di pedoni Astolfo cavalieri. Con questi tutta scorse Africa intorno facendo prede, incendi e prigionieri. Posto Agramante avea fino al ritorno il re di Fersa e il re degli Algazeri col re Branzardo a guardia del paese, e questi si fer contro al duca inglese prima avendo spacciato un sottil legno che a vele e a remi andò battendo l'ali ad Agramante avviso, come il regno patia dal re de Nubi oltraggi e mali. Furon di quei che aver poteano in fretta le schiere di tutt'Africa raccolte, non men di infermetà che di perfetta, quasi che ancor le femmine fur tolte. Agramante, ostinato alla vendetta, avea già vota l'Africa due volte. Poche genti rimase erano, e quelle esercito facean timido e imbelle. Ben lo mostrar, che gli inimici appena vider lontan, che se n'andaron rotti. Astolfo, come pecore, li mena dinanzi ai suoi di guerreggiar più dotti, e fa restarne la campagna piena. Pochi a Biserta se ne son ridotti. Prigion rimase Bucifar Gagliardo. Salvossi nella terra il re Branzardo, via più dolente sol di Bucifaro che se tutto perduto avesse il resto. Biserta è grande, e farle gran riparo bisogna, e senza lui mal può far questo, poterlo riscattar molto avria caro. Mentre vi pensa, e ne sta afflitto e mesto, gli viene in mente come tien prigione già molti mesi il paladin Dudone. Lo prese sotto a Monaco in Riviera il re di Sarsa nel primo passaggio. Da indi in qua prigion sempre stato era Dudon, che del danese fu lignaggio. Mutar costui col re dell'Algazera pensò Branzardo, e ne mandò messaggio al capitan de Nubi, perché intese per vera spia che gli era Astolfo inglese. Essendo Astolfo paladin, comprende che dea aver caro un paladino sciorre. Il gentil duca, come il caso intende, col re Branzardo in un voler concorre. Liberato Dudon, grazie ne rende al duca e seco si mette a disporre le cose che appartengono alla guerra, così quelle da mar come da terra. Avendo Astolfo esercito infinito da non gli far sette Afriche difesa e rammentando come fu ammonito dal santo vecchio che gli diede l'impresa di Tor Provenza e d'acqua morta il lito di Mandi Saracin che l'avean presa, d'una gran turba fece nuova eletta, quella calmar gli parve manco inetta. Ed avendosi piene ambe le palme quanto potean capir di varie fronde, a lauri, a cedri tolte, a olive, a palme, venne sul mare e le gittò nell'onde. Oh, felici, e dal ciel ben dilette alme. Grazia che Dio raro a mortali infonde, o stupendo miracolo che nacque di quelle frondi, come fur nell'acque, crebbero in quantità fuor d'ogni stima, si feron curve grosse, lunghe e gravi. Le vene che attraverso aveano prima mutaro in dure spranghe e in grosse travi, e rimanendo acute inver la cima, tutte in un tratto diventarono navi di differenti qualitadi e tante quante raccolte fur da varie piante. Miracol fu veder le fronde sparte, produr fuste, galee, navi da gabbia. Fu mirabile ancor che vele e sarte e remi avean quanto alcun legno n'abbia. Non mancò al duca poi chi avesse l'arte di governarsi alla ventosa rabbia che di sardi e di corsi non remoti nocchier, patron pennesi, ebbe e piloti. Quelli che entraro in mar, contati foro 26.000 e gente d'ogni sorte. Dudon andò per capitano loro, cavalier saggio, e in terra e in acqua forte. Stava l'armata ancora al lito moro, miglior vento aspettando che la porte, quando un navilio giunse a quella riva che di presi guerrier carco veniva. Portava quei che al periglioso ponte, ove alle giostre il campo era si stretto, pigliato avea l'audace Rodomonte, come più volte io ho di sopra detto. Il cognato tra questi era del conte, e il fedel Brandimarte, e Sansonetto, ed altri ancor che dir non mi bisogna, d'Alemagna, d'Italia e di Guascogna. La nave saracena che trasporta i prigionieri di Rodomonte entra nel porto di Biserta, non sapendo che è in mano cristiana. Brandimarte, Oliviero e Sansonetto si ritrovano tra amici. Mentre festeggiano la liberazione con Astolfo e con Dudone, che già prigioniero a Biserta è stato liberato anche lui, s'ode un frastuono. Un uomo nudo e pazzo, armato di clava, va seminando rovina per la costa. Nessuno sa chi è, nessuno osa fermarlo. Ed ecco che arriva al galoppo una giovane donna. È la sempre trafelata Fiordiligi, che aveva seguito dalla Francia all'Africa lo sposo Brandimarte e nei suoi itinerari aveva incontrato più volte quell'uomo nudo. Ora finalmente Fiordiligi è arrivata al fine delle sue peregrinazioni, che è sì quello di riabbracciare lo sposo, ma pure quello di identificare Orlando nel pazzo scatenato ed esclamare indicandolo: «Eccovi il conte!» Quivi, il nocchier, che ancor non s'era accorto degli inimici, entrò con la galea, lasciando molte miglia dietro il porto d'Algeri, ove calar prima volea, per un vento gagliardo che era sorto e spinto oltre il dover la poppa avea. Venir tra i suoi credette, in loco fido, come vien progne al suo loquace nido. Ma come poi l'imperiale augello, i gigli d'oro e i pardi vide appresso, restò pallido in faccia, come quello che il piede incauto d'improvviso ha messo sopra il serpente velenoso e fello dal pigro sonno in mezzo l'erbe oppresso, che spaventato e smorto si ritira fuggendo quel che pien di tosco e d'ira. Già non poté fuggir quindi il nocchiero, né tener seppe i prigion suoi di piatto. Con Brandimarte fu, con Oliviero, con Sansonetto e con molti altri, tratto ove dal duca e dal figliol d'Uggero fu lieto viso agli suoi amici fatto, e per mercè de lui che li condusse, volson che condannato al remo fusse. Come io vi dico, dal figliol d'Otone i cavalier cristian furon ben visti, e di mensa onorati al padiglione, d'arme e di ciò che bisognò provvisti. Per amor d'essi differì Dudone l'andata sua, che non minore acquisti di ragionar con tai baroni estima che d'esser gito uno o due giorni prima. In che stato, in che termine si trova Francia e Carlo, istruzion vera ebbe, e dove più sicuramente, e dove per far miglior effetto, calar debbe. Mentre da lor venia intendendo nuove, s'udì un rumor che tuttavia più crebbe, e un dar allarme ne seguì sì fiero che fece a tutti far più d'un pensiero. Il duca Astolfo e la compagnia bella, che ragionando insieme si trovaro, in un momento armati furo e in sella, e verso il maggior grido in fretta andaro, di qua di là cercando pur novella di quel rumore, e in loco capitaro, ove videro un uomo tanto feroce che nudo e solo a tutto il campo nuoce. Menava un suo baston di legno in volta, che era sì duro e sì grave e sì fermo, che declinando quel, facea ogni volta cadere in terra un uomo peggio che infermo. Già a più di 100 aveva la vita tolta, né più se gli faceva di paro o schermo, se non tirando di lontan saette. Da presso non è alcun, già che l'aspette. Dudone, Astolfo, Brandimarte, essendo corso in fretta al rumore, ed Oliviero, della gran forza e del valor stupendo, stava maravigliosi di quel fiero. Quando venir su un palafren correndo, videro una donzella in vestir nero che corse a Brandimarte e salutollo e gli alzò a un tempo ambe le braccia al collo. Quest'era Fior di Ligi, che si acceso avea d'amor per Brandimarte il core, che quando al ponte stretto il lasciò preso, vicina ad impazzar, fu di dolore. Di là dal mare era passata, inteso avendo dal pagan che ne fu autore, che mandato con molti cavalieri era prigion nella città d'Algeri. Il gentil cavalier, non men giocondo di vederla diletta e fida moglie, ch'amava più che cosa altra del mondo, l'abbraccia e stringe e dolcemente accoglie. Né per saziare al primo, né al secondo, né al terzo bacio era l'accese voglie, se non calzando gli occhi ebbe veduto Bardin che con la donna era venuto. Stese le mani ed abbracciarlo volle e insieme domandar perché venia, ma di poterlo far tempo gli tolle il campo che in disordine fuggia dinanzi a quel baston che il nudo folle menava intorno e gli faceva dar via. Fior di Ligi mirò quel nudo in fronte e gridò a Brandimarte: «Eccovi il conte!» Astolfo tutta un tempo che era quivi che questo Orlando fosse ebbe palese per alcun segno che dai vecchi divi su nel terrestre paradiso intese. Altrimenti restavan tutti privi di cognizion di quel signor cortese che per lungo sprezzarsi come stolto avea di fera più che d'uomo il volto. Astolfo, per pietà che gli trafisse il petto e il cor, si volse lacrimando ed a Dudon che gli era appresso disse ed india d'Oliviero: «Eccovi Orlando!» Quegli occhi alquanto e le palpebre fisse tenendo in lui l'andar raffigurando e il ritrovarlo in tal calamitade gli empì di meraviglia e di pietade. Piangeano quei signor per la più parte, sì lor ne dolse e lor ne increbbe tanto. Tempo è, lor disse Astolfo, trovar arte di risanarlo e non di fargli il pianto. E saltò a piedi, e così Brandimarte, Sansonetto, Oliviero e Dudon Santo, e s'avventaro al nipote di Carlo tutti in un tempo che volean pigliarlo. Ora non resta che rendere a Orlando il senno perduto. Basterebbe applicargli al naso l'ampolla che Astolfo ha recuperato sulla luna e fargli inalare il contenuto. Ma è una cosa più facile da dire che da fare con quell'energumeno. Ci vogliono le forze unite dei 5 paladini presenti per ridurlo letteralmente alla ragione. Orlando, che si vide fare il cerchio, menò il baston da disperato e folle, e Tadudon, che si faceva coperchio al capo dello scudo e entrar volle, fe sentir che era grave di soperchio. E se non che Olivier col brando tolle parte del colpo, avria il bastone ingiusto rotto lo scudo, l'elmo, il capo e il busto. Lo scudo ruppe solo, e sull'elmetto tempestò sì che Dudon cadde in terra. Menò la spada un tempo Sansonetto, e del baston più di 2 braccia afferra, con valor tal che tutto il taglianetto. Brandimarte, che addosso se gli serra, gli cinge i fianchi quanto può con ambe le braccia, e Astolfo il piglia nelle gambe. Scuotesi Orlando e lungi 10 passi da sé l'inglese fe cadere riverso. Non fa però che Brandimarte il lassi, che con più forza l'ha preso attraverso. Ad Olivier, che troppo innanzi fassi, menò un pugno sì duro e sì perverso che lo fe cadere pallido ed esangue, e dal naso e dagli occhi uscirgli il sangue. E se non era l'elmo più che buono che aveva Olivier, l'avria quel pugno ucciso. Cadde però come se fatto dono avesse dello spirito al paradiso. Dudone e Astolfo, che levati sono, benché Dudone abbia gonfiato il viso, e Sansonetto, che il bel colpo ha fatto, addosso a Orlando son tutti in un tratto. Dudon con gran vigor dietro la braccia, pur tentando col piè farlo cadere. Astolfo e gli altri gli han prese le braccia, né lo puon tutti insieme anco tenere. C'ha visto toro a cui si dia la caccia e che all'orecchia abbia le zanne fiere, correr mugliando e trarre ovunque corre i cani seco e non potersi sciorre, immagini che Orlando fosse tale che tutti quei guerrier seco traea. In quel tempo Olivier di terra sale, là dove steso il gran pugno l'avea, e visto che così si potea male far di lui quel Castolfo far volea, si pensò un modo, ed ad effetto il messe, di far cadere Orlando, e gli successe. si fe quivi a recar più d'una fune, e con nodi correnti adattò presto, e talle gambe, talle braccia, alcune fe porre al conte, e tal traverso il resto. Di quelli i capi poi partì in comune, e li diede a tenere a quello e a questo. Per quella via che Maniscalco a terra cavallo o bue, fu tratto Orlando in terra. Come egli è in terra, gli son tutti addosso, e gli legan più forte piedi e mani. Assai di qua a di là s'è Orlando scosso, ma sono i suoi risforzi tutti vani. Comanda Astolfo che sia quindi mosso, che dice voler far che si risani. Dudon, che è grande, il leva in sulle schene e porta al mar sopra le estreme arene. Lo fa lavare Astolfo 7 volte e 7 volte sott'acqua l'attuffa, sì che dal viso e dalle membra stolte leva la brutta ruggine e la muffa. Poi con certe erbe a questo effetto colte la bocca chiuder fa che soffia e buffa, che non volea che avesse altro meato onde spirar che per lo naso il fiato. Aveasi Astolfo apparecchiato il vaso in che il senno d'Orlando era rinchiuso, e quello in modo a propinquogli al naso che nel tirar che fece il fiato in suso tutto il votò. Maraviglioso caso, che ritornò alla mente al primier uso, e nei suoi bei discorsi l'intelletto rivenne più che mai lucido e netto, come chi da noioso e grave sonno, ove o vedere abominevol forme di mostri che non son né che esser ponno, o gli par cosa far strana ed enorme, ancor si meraviglia, poiché donno è fatto dei suoi sensi e che non dorme, così, poiché fu Orlando d'error tratto, restò maraviglioso e stupefatto. E Brandimarte, e il fratel d'Aldabella, e quel che il senno in capo gli ridusse, pur pensando riguarda e non favella, com'egli quivi e quando si condusse. Girava gli occhi in questa parte e in quella, né sapea immaginar dove si fusse. Si maraviglia che nudo si vede, e tante funi ha dalle spalle al piede. Poi disse, come già disse Sileno a quei che lo legar nel cavo speco, solvite me. Con viso sì sereno, con guardo sì mende l'usato bieco, che fu slegato. E de panni cavieno, fatti a recar participaron seco, consolandolo tutti del dolore che lo premea di quel passato errore. Poi che fu all'esser primo ritornato Orlando, più che mai saggio e virile, d'amor si trovò insieme liberato, sì che colei che sì bella e gentile gli parve dianzi e che avea tanto amato, non stima più se non per cosa vile. Ogni suo studio, ogni disio, rivolse a racquistar quanto già amor gli tolse. Solvite me, è la prima frase che mormora appena riesce a spiccicar parola. Si mette a parlare latino, fanno i paladini, è sempre matto. No, è una citazione di Virgilio, dice Oliviero, che è l'unico ad aver fatto studi seri, e li rassicura. Ha riacquistato la memoria, è salvo. Abbiamo trasmesso la 23esima puntata dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.